e rock di B-Radio. Che bella, ragazzi, a me ricorda Odessa, ricorda i Bee Gees. I Bee Gees avevano una particolarità, gli incassi vocali perfetti, decisamente incredibili. Franco, come potete giudicare per i capelli che portiamo? Che questa frase dei Rocks cosa ti può far pensare? Beh, intanto era di Nomadi, sì, la frase. Sì, pardon, dei Nomadi, non dei Fa Rocks. Pensare a uno slogan di allora, c'è anche sul beat italiano, meglio un soldato oggi che meglio anzi un beat oggi che un soldato domani. Certo, certo. Cioè i capelli lunghi dimostravano un pochino di avversione al sistema, chiaramente. Ecco. Era l'inizio del pacifismo, l'inizio di andare controcorrente, l'inizio di una gioventù che si ribellava a quelli che erano i cani dettati dal sistema borghese che cominciava a essere pesante. Ma voi mi pare non capelli lunghi non li portavate. Noi avevamo sì i capelli lunghi, sì. Ce li hanno fatti tagliare nella copertina del primo disco. Ecco, sempre perché c'è stato questo tentativo il tentativo di imborghesire questo movimento beat. Quindi per presentarci ho detto tagliatevi i capelli, ragazzi. Quindi noi siamo partiti col Canto Italia e la casa discografica, sì. Ma è vero il discorso, io ho letto da qualche parte che i cappelloni prendevano nel cantagiro famoso. Venivano prese a sassate. Ma è vero, ma addirittura era difficile andare in televisione con i capelli troppo lunghi. In televisione noi andavamo sempre perché ci attaccavamo quanti bene i capelli e perché eravamo sempre vestiti in giacca e cravatta. Allora abbiamo fatto un sacco di televisioni. Noi abbiamo fatto 20 televisioni importanti. Avete fatto anche in quei due anni là. Voi. Esatto. Però quella è stata la tournée americana, un'altra cosa. Però voglio dire, per presentarsi bisognava avere un aspetto pulito. Pulito. Quindi come un aspetto beatlesiano e non rollistoniano. Allora. Molto beatlesiano. Molto e beatlesiano. Ti dirò di più, nelle canzoni, nelle registrazioni, eccetera, la batteria è sempre tenuta volutamente bassa, le chitarre pulitine, esatto. La voce melodica doveva essere in primo piano, se no non passavi in radio. E una cosa, infatti, io disconosco tutti i nostri dischi per i missaggi. Noi quando li suonavamo era una cosa, quando erano missati, ciao, partiva la batteria, partiva tutta la cattiveria che c'era. E un'altra cosa volevo chiederti, ho letto sempre da questo libro, poi posso chiedere anche agli altri, a Lele e a Franco. Certo. La censura, Franco, la censura all'epoca. Beh, per esempio la nostra canzone Non piango mai era Tu lo sai, non prego mai, non abbiamo potuto farla. La canzone Sono giù, sì. La nostra canzone Sono giù, oggi ho cercato un posto per lavorare ma non ho trovato niente da fare, quelle robe là, sono giù, poi tutti mi hanno detto che non devo rubare, già sono troppi a farlo meglio di me, sono su, quella era chiaramente politica, i ladroni sono in atto, vanno in galera, cioè come 40 anni fa anche adesso è così, certo, non certo. So se adesso potrebbe passare, forse adesso sì, allora non è passato in radio. Siamo riusciti a mettere dentro l'LP così di nascosto. Ma come tu hai detto giustamente, anche il volume forte dava fastidio. Eh sì, il volume forte dava fastidio, specialmente quando registravamo. Quando suonavamo dal vivo, noi avevamo un ottimo sound che funzionava benissimo. Avevamo i Fender a buon livello, le chitarre, la batteria, che come diciamo così, usi il termine vero, tegavano di brutto. Sì. Mentre quando si registrava, qua attenuavano tutto: timbri, toni, dolcezza nella voce. Il nostro cantante melodico per lo più usciva lui. E così, cioè, ci hanno molto ridimensionati, niente da dire. La reazione vinceva allora come vince. Io ricordo la frase di Mike Bongiorno quando presentò gli Airbus, li chiamò i gallinacci. Tradusse come gallinacci sì, che ha sbagliato, sbagliato. Un gruppo come gli Airbus, che erano ubriachi, fradici, d'accordo, sì, però sì, erano gli Airbus, quindi era una cosa straordinaria all'epoca. E sì, tu hai detto che non c'era antagonismo fra voi. No, non c'era antagonismo fra noi, né con i gruppi padovani, che eravamo tutti amici, né con i gruppi inglesi che conoscevamo al paio, che eravamo tutti amici. Cioè, non c'era nessuna rivalità, devo dirlo proprio sinceramente. C'erano quelli più bravi di noi, quelli che sono peggio di noi, c'erano quelli che con cantante che era meglio, quell'altro che era peggio, cioè noi. Hai capito che voglio dire? Ho capito. Ma non c'era assolutamente, c'era scambio di idee, di opinioni, non eravamo tutti amici, direi. Trovavamo lo stesso bar a Padova, al Mic Bar. C'erano ste ragazze, ogni gruppo aveva un po' il suo seguito di fans. Le cose ragazze qua. Però erano diverse. Cioè, dimmi. Cioè, ogni gruppo aveva le sue. No, veramente c'era degli scambi, magari anche sconosciuto. Avvenivano anche allora tra di me cose del genere. Solo che non si sapeva. Eravate a livello di Giega, perché era messo. C'era quello di stare zitti. C'erano dei segreti. Cioè. Perché era l'inizio della liberazione sessuale. Ho capito. L'inizio della liberazione. Che dopo è venuta subito dopo, comunque. Certo, certamente. Bene, adesso passiamo a un pezzo che abbiamo già citato precedentemente, Lele. Siete pronti allora? Missy Robinson.